Allora, signori, buonasera. Dunque, qualcuno stasera mi ha fatto notare che fra 2 settimane ci sarà il ponte. Io personalmente grossi problemi non ne ho, nel senso che tanto vado al lavoro durante il giorno, per cui verrei tranquillamente anche qua la sera. Voi iniziate a farci una pensata, sì, il 9. Iniziate a farci una pensata perché l'8 è festa, che è giovedì, quindi fra 2 settimane, il 9 è venerdì. Da calendario la lezione del 9 si fa regolarmente. Voi iniziate a farci una pensata, se qualcuno deve andare in giro per motivi suoi, ovviamente. Venerdì prossimo facciamo una specie di mini votazione, vediamo chi c'è e chi non c'è e in base a quello decidiamo se fare lezione fra 2 settimane o meno. Okay? Ripeto, da parte mia si può tranquillamente fare perché ci sono. Buonasera. Allora, la lezione scorsa, quindi 2 settimane fa, abbiamo iniziato a lavorare effettivamente sul computer e siamo andati avanti con il nostro Esplora Risorse. Quindi con questa schermata qua, cioè quella finestra che mi permette di andare a creare delle cartelle, che mi permette di cancellare dei file, che mi permette di rinominare degli oggetti e così via dicendo. Questa settimana avete avuto modo di fare qualche prova? Negativo vuol dire di no o che non è andata bene? Beh, proprio niente, spero voi no. La cartella l'ho fatta, ma la rinomina, ad esempio, mi dava cartella vuota e non andava male. Allora, già il fatto che abbia fatto la cartella vuota vuol dire che proprio niente non è, via. Non ci buttiamo giù proprio così. Vabbè, allora, per il rinomina in realtà è la cosa meno peggio, nel senso che... nel momento in cui io faccio una nuova cartella... e notate tra l'altro che andandola a creare sul desktop, questa cartella me la trovo anche qua, che è appunto il desktop. La rinomina, se io ho una cartella, facendoci clic destro e andando alla voce rinomina, scrivo un altro nome e schiaccio invio. Il motivo per cui potrebbe dare errore è che magari uno o non scrive niente o fa un lavoro di questo genere. Magari in alcuni casi potrebbe dare errore. Però se uno fa clic destro sull'oggetto, anche se la cartella è vuota, clic destro e poi clic su rinomina. Magari provi a rifarlo a casa, ma ripeto, l'operazione non dovrebbe comportare... errori particolari, è proprio solo una necessità di impratichirsi un pochino di più, però ecco, non ci sono grosse controindicazioni nella rinomina, a meno che non andiate a rinominare, ma non penso sia il suo caso, degli oggetti che non avete creato voi, perché magari quelli potrebbero essere degli oggetti di sistema e a quel punto il sistema operativo si ribella e dà degli errori, però sono errori un pochino più che fanno venire un po' più il patema d'animo, cioè del tipo attenzione, questo oggetto è un oggetto del sistema, però ecco, sono errori più, come dire, che mettono più in allerta. Il fatto che sia vuota, magari semplicemente uno ha sbagliato il tasto o altro, però voglio dire, non è tranquillamente bypassabile. Ok, allora dobbiamo ancora vedere il cestino, perché la lezione scorsa abbiamo visto come Ecco, una cosa alla quale tengo molto, avete provato a selezionare più oggetti vicini e lontani? Sì. Quindi lo shift click, il control click? Ah, che bravi. Bene. Quindi lo facciamo rivedere soltanto molto velocemente. Abbiamo visto i metodi di selezione multipli, quindi selezionare più oggetti significa prenderli in mano tutti quanti contemporaneamente, per cui l'operazione che si fa su un oggetto in realtà la sto facendo su tutti. Abbiamo detto, per selezionare più oggetti che siano uno vicino all'altro, clicco sul primo, alzo tutte le ditina. Quanti di voi sono andati sull'ultimo e hanno schiacciato? Dite la verità. Alzo tutte le ditina, vado sull'ultimo e a quel punto faccio shift e mentre tengo premuto il pulsante shift della tastiera faccio click. E in questo modo vado a selezionare tutti gli oggetti che stanno tra uno e l'altro. Per selezionare oggetti non adiacenti clicco sul primo, vado sull'altro senza schiacciare, control click, control click, control click, control click. E questo mi permette di selezionare più oggetti che non siano uni gli uni adiacenti all'altro. Questo metodo, mi raccomando, di impratichirvi nelle vostre sessioni davanti al computer, perché è il medesimo metodo che si utilizza per tutti gli oggetti su Windows, Office ed eventuali altri programmi che andrete ad utilizzare in futuro. Quando faremo per esempio Word useremo questi metodi per selezionare il testo anziché le immagini. Quando faremo Excel useremo questi metodi per selezionare le colonne, le celle, le righe e così via dicendo. Quindi è un metodo generale che introduciamo adesso per motivi didattici sui file, ma in realtà è un metodo che è universale per tutti i programmi all'interno di un computer. Ora, il passaggio successivo è appunto il cestino. Quindi la lezione scorsa abbiamo detto eliminiamo un file, siamo rimasti sul vago dicendo questo file, una volta eliminato, questo file o questa cartella, una volta eliminati vanno a finire nel cestino. Vediamo oggi il cestino. Quindi io faccio clic destro su questa cartella che ho appena creato, clicco su elimina, abbiamo visto che mi dice sei sicuro di spostare questo oggettino qua nel cestino, gli dico sì e la cartella sparisce. Dove è andata a finire? È andata a finire sul cestino. Allora, il cestino solitamente si trova sul desktop. Quindi vado a fare doppio clic sull'icona del cestino che si trova sul desktop. E mi si apre un'ulteriore finestra che sostanzialmente contiene tutti gli oggetti che nel tempo ho eliminato. Prevengo la domanda che magari qualcuno di voi sta sorgendo in testa: quanto contiene il cestino? Allora, il cestino contiene una percentuale dell'hard disk, solitamente il 10%. Forti delle lezioni che abbiamo fatto all'inizio di questo corso, noi sappiamo che il cestino grosso e che gli hard disk solitamente sono dell'ordine della decina o centinaio di giga. Beh, diciamo centinaio o migliaia di giga ormai. Quindi su un hard disk da 500 giga, ricordate chilo, mega, giga? Sì. Ah, fantastico. Su un hard disk da 500 giga, quindi 500 miliardi di byte, un cestino grosso modo vale il 10%, quindi sarà un 5 gigabyte. Byte in più, byte in meno. Allora, se io faccio doppio clic sull'icona del cestino, abbiamo detto si apre questa finestra che è il contenuto del cestino stesso. Vedete che lì c'è la mia cartella Pluto che avevo cancellato poc'anzi. Quindi in pratica non vengono cancellate proprio? No, vengono spostate come proprio se avessi il cestino nella scrivania, no? Io prendo un foglio, lo accartoccio, lo butto nel cestino e quello sta lì. Ora, analogamente al foglio che io butto nel cestino della mia scrivania, cosa, che sorti può seguire quel foglio lì? O lo butto via, definitivamente questa volta, oppure lo riacchiappo e lo rimetto al suo posto. Quindi, voglio riacchiapparlo e non riesco perché non ve lo dai in ordine, qualche volta mi serve, ho sbagliato, voglio riacchiapparlo e non riesco più. Adesso vediamo come fare. Quindi, gli oggetti, e questo scrivetelo, gli oggetti all'interno del cestino possono essere o eliminati definitivamente e attenzione perché definitivamente vuol dire che non sono più recuperabili o ripristinati. Cosa vuol dire ripristinati? Vuol dire che sono messi nella stessa posizione dal quale li avevo cancellati. Quindi, tra parentesi, ovvero rimessi nella stessa posizione dalla quale li avevo cancellati. Come si fa a fare queste operazioni? Allora, punto primo, apro il cestino. Facendo doppio clic sull'icona del desktop. Fino a qua ci siamo? Quindi c'è il desktop, il cestino, doppio clic, si apre la finestra. Doppio clic, sempre col sinistro. Punto secondo. Che devo fare? Cosa devo fare sull'oggetto che voglio ripristinare o eliminare? Lo seleziono. Ecco, alla fine di questo corso, signori, sicuramente impareremo molte cose, ma tra i concetti che mi piacerebbe davvero passarvi, uno dei concetti che mi piacerebbe veramente passarvi è questo, cioè quando vi chiedete come fare un'operazione su un oggetto, la prima cosa che dovete fare è cliccarci sopra. Questa è una delle operazioni che forse ve l'ho già detto, ma chi inizia da poco ad usare il computer fa fatica a concepire. Perché molte volte vedo le persone lì davanti al monitor, cosa faccio? Vabbè, tu inizi a cliccarci sopra, così l'hai selezionato, e poi dopo ci pensi. Questo deve essere proprio un concetto che alla fine di questo corso deve essere vostro. Cioè, prima ancora di pensare come lo faccio, ci clicco sopra, poi dopo ci pensiamo. L'altro concetto è che dopo averci cliccato sopra ci devo fare clic destro, perché mi fa apparire un menu a tendina dove ci sono quasi tutte le operazioni fattibili su quell'oggetto. Quindi il punto 2 è ci clicco sopra per selezionarlo. E aggiungete anche che se volete farlo su più oggetti usate la selezione multipla, che abbiamo visto 2 secondi fa. Quando apro che ho una lista tipo quella dove ci sono 50.000 numeri, per ricordarmi cosa c'è dentro, lo deve ripristinare per forza. Sì, perché dal cestino non fa entrare dentro la cartella. Quindi abbiamo detto il punto 2, lo seleziono cliccandoci sopra. Oppure, se voglio fare l'operazione su più oggetti, uso la selezione multipla. Punto 3. Clic destro sopra. Quindi io ho selezionato la mia cartella Pluto, cliccandoci sopra, d'accordo? Ci faccio clic destro. Appare un menu a tendina, e guarda caso, sulle voci, sulle quattro voci che ci sono, due sono proprio quelle che mi interessano. Una è la voce ripristina, l'altra è la voce elimina. Taglia, lo vedremo fra un pochino. Quindi ripristina o elimina. Abbiamo detto, attenzione perché elimina, lo elimina definitivamente. Cioè una volta cancellato da lì non è più recuperabile. Il ripristina invece lo rimette da dove l'avevo preso. Gli scorsi anni poi c'era sempre qualcuno che mi faceva, ma non c'è proprio modo di ripristinare i file eliminati in questa maniera qua? Allora, se qualcuno di voi ha in testa questa curiosità, la risposta è sì, qualche modo c'è. Non fa parte però del sistema operativo. Bisogna essere già un minimo, non dico dei tecnici, ma avere a disposizione dei software che mi permettono di ripristinare i file eliminati dal cestino. E di solito, non, soprattutto più passa il tempo, meno l'operazione è un qualcosa di fattibile. Però, banalmente, se avete la fatturazione dell'azienda e la cancellate prima che arrivi il controllino, se quelli lì sono un minimo furbi, la fatturazione salta fuori. Questo per parlare proprio all'italiana. No, ve lo anticipo perché l'anno scorso una persona me l'ha chiesto, quindi... Ok, allora... Se io schiaccio la voce elimina, il computer, vedete che al solito quando sto per fare un'operazione potenzialmente pericolosa mi appare sempre la finestrella, no? Questa volta l'icona, vedete che ha quella X bella rossa che è diversa da quella che c'era precedentemente e che mi mette un pochino più in allarme, no? Mi dice, ma sei sicuro che vuoi rimuovere in modo definitivo la cartella? Se gli dico di sì, questa volta la cartella non la recupero più. Quindi sparisce dal cestino definitivamente. Chiaro per tutti, signori? Ok. Provateci quindi a casa. Magari vi create un paio di cartelle, le chiamate Pippo e Pluto, le cancellate, dopodiché una provate a ripristinarla e una provate a eliminarla dal cestino. D'accordo? Elimina posta eliminata e io elimino e va via tutto, resta dentro oppure... Beh, la differenza sostanziale è che lei mi sta parlando di posta elettronica e io le sto parlando di file. L'altra differenza, in realtà a livello concettuale non cambia niente. Ma la posta va a finire lo stesso nel cestino? Sì, ma non in questo cestino, ma quello del programma. Ah, ecco. Però concettualmente è la stessa cosa. Ma allora, devo essere sincero, in Windows 7 non lo so e adesso lo proviamo insieme. Fino al Windows XP non si poteva aprire l'oggetto dal cestino, bisognava ripristinarlo. Adesso lo proviamo su Windows 7 se questa cosa qua l'ha cambiata, ma direi di no. No, no. Perché una volta che è nel cestino, voi provate a immaginare il foglio o il foglio di carta pallottolato nel cestino. Finché non lo ripristino non lo posso aprire. Esatto. Ecco, qualcuno di voi, probabilmente, a qualcuno di voi è stato detto dagli amici, dai conoscenti, dai colleghi, di fare clic destro sul cestino e di andare a premere svuota cestino periodicamente. Ma io personalmente non adoro questa opzione, ma non per qualche motivo in particolare, perché semplicemente lo svuota cestino fatto in questa maniera qua non vi permette di vedere cosa effettivamente state buttando definitivamente via. Di conseguenza, chi non conosce questa opzione, a mio avviso, continui a non conoscerla. Tanto poi arriverà il giorno in cui l'amico dice ma ti hanno detto di fare così? No, no, fai così che è più veloce. Vabbè. Chi invece la conosce, personale consiglio, aprite sempre il cestino e andate a vedere cosa state buttando via. Perché magari a distanza di tempo salta fuori sicuramente quel file o quella cartella che magari vi potrebbe servire. E allora, insomma, dateci sempre un occhio dentro. Ho fatto clic destro sull'icona del cestino. Sull'icona del cestino. Esatto. D'accordo, signori? Sì. Perfetto. Allora passiamo ad un altro argomento. Quindi questo era un po' a conclusione di ciò che ci siamo detti 2 settimane fa. Prego. Sì. Per fare questo bisogna chiaramente selezionarlo e poi fare Shift più Canc sulla tastiera. Shift più Canc sostanzialmente, guardate solo un secondo, Shift Canc, vedete che questa volta l'icona è rossa e le dice vuoi rimuoverlo completamente? E questo mi permette di non passare dal cestino. Occhio però, perché ovviamente è più rischiosa come operazione, no? Scusi, in pratica per non lasciare traccia su no, allora, non so, io in ufficio, la fermo subito, e come dicevo prima, nel senso, la traccia non la si lascia per un utente medio. Se c'è l'utente invece con il pelo dal punto di vista informatico, la traccia se la va a recuperare ugualmente. Ok. Solo se vogliono. Sì. Cioè, se c'è, per dire, l'amministratore di sistema che viene incaricato di andare a scandagliare l'hard disk dell'utente alla ricerca di informazioni, l'informazione la trova. È anche vero che più passa il tempo, ma non perché si smagnetizzi il disco, ma semplicemente perché magari ci vado a sovrascrivere sopra le vecchie informazioni, più è possibile che magari quell'informazione lì non sia più recuperabile. Però è anche vero che negli hard disk, soprattutto odierni, che si usano in ufficio, una volta cosa succedeva? Che gli hard disk erano molto piccoli, per cui sostanzialmente a distanza di poco tempo magari gli si andava a sovrascrivere sopra a dove c'era il vecchio file, no? Per cui era più facile che magari a distanza di pochi giorni o poche settimane l'informazione non fosse più disponibile. Oggi gli hard disk sono sempre più grossi, perché vengono fatti sostanzialmente per grossi file, grossi film, grossi audio, grossi tutto. Ma nell'utilizzo di un ufficio normale, in realtà, la porzione di disco che io vado a usare è davvero esigua. Perché su 500 giga, quando ne vado a usare 4, già sono tanti. E allora lì le informazioni rischiano di arrivare ad anni di permanenza. Per cui il discorso è sempre lo stesso, cioè se non si vuole lasciare traccia su un hard disk non è possibile. Bisognerebbe fare tutto su una chiavetta USB, ma la chiavetta USB soffre di possibili perdite di dati. Banalmente, io avevo una chiavetta da 16 giga, me la mettevo sempre in tasca, ultimamente ho perso alcune delle informazioni che dicevo sopra, perché queste stanno col cellulare, con le chiavi di casa, con poi butti i pantaloni in giro e magari sbatte, fa, dice, per cui è chiaro che sono più soggette alla perdita dei dati. Ok, allora signori, passiamo ad un altro argomento, ovvero sposta, copia o collega? Sposta. Sì. Sposta, copia o collega? Allora, signori, anche questo è uno dei concetti che, arrivati alla fine del corso, mi auguro che facciate propri. Perché lo spostamento, la copia o la creazione di un collegamento sono operazioni che noi didatticamente inseriamo in questo ambito, ma che in realtà utilizzerete in tutti i programmi. Non parliamo poi ad esempio di Word, non parliamo poi ad esempio di Excel o della posta elettronica. Quindi questi sono concetti che si utilizzano tantissimo. Forse tra le operazioni più usate in assoluto in un computer. Vediamo che cosa significa. Allora, innanzitutto qua l'oggetto di questi tre verbi è un file o una cartella. Quindi qua stiamo parlando del sistema operativo. Il sistema operativo serve per gestire file o cartelle, per cui l'oggetto è file o cartella. Ovviamente anche più file o più cartelle a seconda che usi la selezione multipla. Allora, cosa vuol dire spostare un oggetto? Spostare un oggetto vuol dire prendere l'oggetto, scrivete, spostare un oggetto significa prendere un oggetto, metterlo in un'altra posizione, per esempio in un'altra cartella, e dove era prima non c'è più. E dove era prima non c'è più. Ma questo è un concetto che, sebbene sia lungo da spiegare, fa parte del nostro viver quotidiano. Se io ho un gessetto qua sul palmo della mia mano, se lo prendo e lo sposto su questo banco, dove era prima non c'è più. D'accordo? Quindi non dice nulla di particolarmente nuovo. Cosa vuol dire copiare? Ah, scusatemi, no. Prima del copiare, a cosa serve secondo voi lo spostamento? Per poter ordinare, quindi metto in ordine i file o le cartelle, esatto. Cioè, signori, la scorsa settimana noi abbiamo visto come, due settimane fa, abbiamo visto come creare delle cartelle. E va bene, io creo delle cartelle, e poi? E poi, ad esempio, una cosa che posso fare è inserire in queste cartelle i file che magari nel tempo ho creato. Mi seguite? Quindi, ad esempio, se io ho la cartella documenti, ho la cartella documenti con tutte le mie ricette, mi vado a creare la cartella documenti ricette, e questo lo sappiamo fare dalla lezione scorsa. E poi cosa devo fare? Tutte le mie ricettine, che saranno tanti piccoli file, me le devo spostare qua sotto. Ed è quello che impareremo a fare questa sera. È chiaro il meccanismo, signori? Quindi lo spostamento solitamente serve per mettere ordine. Ok. A cosa serve invece la copia? Creare una copia significa duplicare l'oggetto. È abbastanza intuitivo, no? È come fare una fotocopia di un documento, no? Che faccio? Piglio il foglio, lo metto nella macchina fotocopiatrice, scansiono quell'oggetto e mi ritira fuori un foglio del tutto identico al precedente. È vero? Ora, i due oggetti sono sostanzialmente uno il duplicato dell'altro. Tutti d'accordo su questo, no? Ecco, un concetto importante è che le modifiche che faccio su uno non ci sono sull'altro. È intuitivo, ma scrivetevelo. Perché poi quando uno ci lavora, il dubbio le prime volte gli rimane sempre: ma se io faccio la modifica su uno, c'è anche sull'altro? No. Quindi le modifiche che faccio su uno ci sono anche sull'altro, non ci sono sull'altro. Ed inoltre occupo lo spazio due volte. Perché se un file era grosso 10 megabyte, quando io lo copio dall'altra parte sarà grosso 10 megabyte. Ah, è bello perché c'è poi la caccia al cellulare, no? Ma poi dopo qualche lezione è bello perché la gente, che quando capisce che a me dà particolarmente fastidio il cellulare acceso, poi inizia a girarsi nei banchi dietro: non è mio. Non è... E c'è tipo il passaparola, no? Va bene. Poi la dinamica che a me affascina sempre tanto, adesso faccio un piccolo excursus, e anche quando le persone sentono una musica che proprio non ci azzecca niente col proprio, perché lo stesso si sentono in dovere di dire: non è il mio. È ovvio, perché se la musichetta non è quella del tuo, è ovvio che non sia il tuo, eh? Però è carina come... Va bene. Allora, quindi la copia, dico, duplico l'oggetto e occupa lo stesso spazio. Allora qualcuno mi potrebbe dire: ma che serve allora copiare? Due volte. Sì, perché come il foglio di carta, no? Io lo duplico, ho due pezzi di carta. A che serve? Serve per copiare l'oggetto su un'unità di massa diversa. Cioè, signori, perché voi fate una fotocopia? Perché fate la fotocopia? Per darla a qualcun altro, perché voi il documento ce l'avete e ve lo tenete per voi. La fotocopia serve per darlo a qualcun altro. Eccolo qua. La copia serve per duplicare l'oggetto, sì, ma su due unità di massa differenti. Cioè, se una è dentro la cartella documenti, e documenti dove si trova? In che unità di massa? In C. Quindi se uno si trova in documenti che sta dentro il disco C, ad esempio lo copio nel disco, supponiamo E, che sarà la chiavetta USB. Quindi è vero che occupo il doppio dello spazio, ma su due dispositivi diversi. La chiavetta USB la tolgo, la do al mio amico, e il mio amico si vede il documento che ho creato. Al mio fornitore, al mio... cliente. Chiaro, signori? Ovvio che fare la copia all'interno di una stessa unità di massa non ha nessun tipo di senso, perché ho la stessa copia che mi occupa il doppio dello spazio e peraltro le modifiche che faccio da una parte non ci sono dall'altra, per cui è proprio il peggio del peggio. Sì, potrebbe essere quello un'idea. Fino a qua, signori, ci siamo? Poi come si fa lo vedremo fra poco, però... Arriviamo invece ad un concetto leggermente più articolato, che è il collegamento. Ora, il collegamento, allora voi seguitemi, scrivete e poi dopo cerchiamo di capirci meglio. Il collegamento è una sorta di porta di accesso al file o alla cartella. Ed è sempre grande un kilobyte. Le modifiche che faccio sul file originale rimangono sul file originale. Le modifiche che faccio sul collegamento in realtà le sto facendo sul file originale, perché abbiamo detto che è una porta di accesso, quindi quando io faccio doppio clic sul collegamento in realtà sto aprendo l'originale. Quindi le modifiche che faccio sul collegamento in realtà le sto facendo sull'originale. Questo è un Nokia, per cui chi ha l'LG non si preoccupi. E no, in realtà non è una copia, quindi concettualmente è proprio diversa, esatto, no? È proprio una porta di accesso. Ho detto, è diametralmente opposto a prima. Sì. Sì, poi l'altra dinamica che mi affascina anche qua, piccolo excursus, no? È quando uno dice, vabbè, guarda questo frescone qua che si è fatto beccare col cellulare. Allora non è che pensa, spengo anche il mio. Anche questa è una dinamica affascinante. Allora, io ho il mio file da 10 mega, faccio il collegamento che è grosso un kilobyte, abbiamo detto, indipendentemente che io le modifiche le faccia aprendo l'originale, o aprendo il collegamento, in realtà le modifiche saranno sempre sull'originale. Questo è chiaro, signori? Allora, a questo punto, giustamente, uno si potrebbe chiedere, vabbè, ma allora che mi serve questo collegamento? Il collegamento serve sostanzialmente per accedere più velocemente all'oggetto. Tipicamente il collegamento lo si fa sul desktop. Tipicamente il collegamento lo si fa sul desktop. Il collegamento serve per aprire velocemente un oggetto. E viene fatto tipicamente sul desktop. Quindi, in altre parole, signori, se io ho la mia cartella C documenti ricette che contiene questo file qua grosso da 10 mega dove ho messo tutte le ricette possibili e immaginabili, se io tutti i giorni o comunque periodicamente mi vado a modificare, vado ad aggiungere delle ricette a quel file, non mi deve venire la tentazione di metterlo sul desktop, ma al suo posto sul desktop ci metto il collegamento. Tanto abbiamo appena detto che quando apro il computer e faccio doppio clic sul collegamento, in realtà lui mi apre il file originale. Chiaro per tutti? Domande? Fatemene una. Vedi che c'era la domanda. Giustamente uno mi può dire, ma perché, chi me lo fa fare di fare un collegamento e non mettere direttamente l'originale? Le risposte sono diverse. Adesso poi introduciamo ancora un altro concetto del collegamento. Una prima risposta che sicuramente molti di voi sentono è che avere tanti oggetti molto pesanti sul desktop rallentano il computer. Quindi se voi avete notato un rallentamento nel vostro computer ed avete tanti oggetti sul monitor, uno dei motivi del rallentamento del computer, uno dei motivi del rallentamento del computer è che questo qui fa fatica tutte le volte che vi fa vedere la videata, tutte le volte deve caricare tutti questi oggetti in memoria. Per cui, poveraccio, tutte le volte che apri e chiudi la finestra, o addirittura all'inizio, quando accendo il computer, scrivo nome utente e password, e questo tro. Che sta facendo quel tro? Sta caricando tutti gli oggetti. Dice, ok, c'è questo 10 mega, questo 20 mega, questo 5 mega. E ci mette un po'. No, nel cestino è lì. No, verranno meno fastidio, sì. Anche perché, se ha notato prima, anche se la cartella, ammesso in un concesso che fosse stata piena, facendoci doppio clic, in realtà lui non mi faceva entrare. Per cui per lui è proprio come se fosse un oggettino piccolino a sé stante. Quindi, una prima motivazione del perché mettere un collegamento anziché il file originario è che il collegamento, pesando di meno, pesa di meno sul computer. Ora, è chiaro che se uno ha un computer che è una lumaca, non è che se toglie tutti i file dal desktop questo diventa domani una Ferrari. Ma diciamo che da una lumaca lenta e bavosa diventa una lumachina un po' da corsa. Ok? Ve lo siete scritto questo sul... non dalla lumaca, eh? Sugli appunti dove siete scritto? Quindi una prima motivazione, abbiamo detto, è che i file originali sul desktop rallentano il computer. Quindi anche se uno li prende dentro l'altro per liberare il computer. E lo rallentano in realtà. Lo rallenta comunque. Sì, molto meglio prendere l'oggetto, metterlo dentro la cartella documenti o in una sua sottocartella e poi si fa il collegamento. In quel modo lì effettivamente dovrebbe notare, quantomeno in fase di caricamento, un leggero miglioramento. Scusi, mi è venuto il dubbio. Tutte le icone che io ho su questo. Gesù. Per esempio, No, quelli sono dei collegamenti. Collegamenti. Ah, li riconosco dalla freccia. Adesso infatti lo diciamo. Ora signori, questa è una prima motivazione. Andiamo però a vederne anche delle altre. Innanzitutto, vabbè, dato che l'ha introdotto la signora, diciamo anche questa cosa qua. Come faccio a riconoscere un collegamento? Un collegamento lo riconosco perché nell'angolo in basso a sinistra ha una freccetta in senso orario o antiorario, non mi ricordo mai, ma adesso lo vediamo. Un collegamento lo riconosco. Lo vedete questo, signori? Lo vedete questa freccina? Questa? Questa? Questa? Questa qua, signori? Ok, quella freccina lì, vedete che nell'angolo in basso a sinistra c'è una freccia in senso orario, mi sta ad indicare che l'oggetto è un collegamento. Beh, il programma no, però il documento sì. Chrome no. Non ho visto la freccina. Ah, quello, sì. Sì, sì, anche questa qua è un collegamento, anche quello lì è un collegamento. Questo, ad esempio, non è un collegamento. Questo è un file originale. D'accordo, signori? Sì. Ma diciamo qualcosa in più. Se cancello il collegamento, che succede all'originale? E a tutte le modifiche che c'erano sull'originale? Rimangono lì. Era un po' trabocchetto questa. Se io cancello la porta di accesso ad una stanza, che succede alla stanza? Quindi, cancellando il collegamento, l'originale rimane con tutte le modifiche fatte nel tempo. Ripeto, se cancello il collegamento, l'originale rimane con tutte le modifiche fatte nel tempo. E questo, signori, è l'altro vantaggio di usare un collegamento, no? Perché io ho degli oggetti che uso tutti i giorni, me ne faccio il collegamento sul desktop. Se poi un domani quegli oggetti lì non li uso più tutti i giorni, cancello il collegamento, ma gli originali continuano a rimanere dove sono. L'originale rimane? Dov'è? Dov'è? Che succede se io cancello l'originale? No, il collegamento rimane. Però è vuoto. Niente. Questo inizia a girare e dopo un po' mi dice non ho trovato l'originale. Quindi se io cancello l'originale, al contrario, l'icona del collegamento rimane. Però è vuota. E se io ci faccio doppio clic, vedete proprio il computer che inizia a cercare, e dopo un po', quando non trova quel documento, dice non ho trovato niente. È chiaro per tutti, signori? Quindi è chiaro cosa serve un collegamento? Sì. Perfetto. E allora vediamo come si fanno queste tre operazioni. Quindi scrivetevi titoletto, operazioni sul computer. Quindi vediamo questi tre concetti che abbiamo spiegato, come si applicano sul computer. Ora, il procedimento che io sto andando a descrivere vale per tutte e tre, per cui scrivetevi i punti come li ve li propongo, perché valgono per tutte e tre le operazioni. Allora, la prima cosa da fare qual è? Selezionare. Quindi diciamo così, prima operazione, seleziono L' barra gli oggetti. Perché l'oggetto può essere o uno o più di uno. Quindi seleziono o l'oggetto o gli oggetti che voglio o copiare o spostare o collegare. Oh, chiaramente signori, io non l'ho detto, ma il punto 0 in realtà apro esplora risorse, perché tutte queste operazioni qua io le faccio sempre dall'esplora risorse. Ok. Zero, zero, accendo il computer. Ok, quindi apro esplora risorse, seleziono l'oggetto e gli oggetti che voglio copiare, spostare, trascinare. Punto 2. E il punto 2 è quello che manda sempre un pochino in crisi. Visualizzo la destinazione. Cioè la destinazione che vuol dire? Dove devo andare a inserire questi oggetti? La destinazione. Adesso poi lo vediamo. Fate vedere che già uno va in crisi. Palpitazioni, oddio. Punto 3. Trascino vi ricordate cosa vuol dire trascinare? Che clicco sul pulsante mentre lo tengo premuto mi sposto. Trascino con il pulsante destro i file a destinazione. Ora signori, il trascinamento deve essere, però è fortemente e vivamente consigliato con il pulsante destro. Adesso poi vediamo perché. Punto 4. Nel menu a tendina scelgo l'operazione. L'operazione ovviamente sarà o sposta o copia o collega. Saluto. Allora, vediamolo un attimo sulla pratica. Allora, io ho questa cartella che si chiama Europa. Immaginatevi che lì sotto ci siano tutte le cartine dei vari stati europei. D'accordo? Voglio andare ad inserire questa cartella Europa dentro la cartella Geografia che si trova dentro la cartella Libri. Chiaro? Allora, il punto 0 apro l'Esplorer risorse e ce l'ho aperta. Il punto 1 seleziono l'oggetto e l'ho selezionato, quindi ci ho cliccato sopra. E il punto 2 visualizzo la destinazione. Allora signori, cosa vuol dire visualizzare la destinazione? Che se io la voglio mettere nella cartella geografia che sta dentro Libri, che devo fare? Devo andare, vi ricordate quelle freccine che si muovono? Devo andare a fare clic su questa freccina qua, che è quella di documenti, che mi apre la cartella Libri. Devo andare a fare clic su questa freccina che mi fa vedere Geografia. È chiaro il punto 2? Quindi devo rendere visibile dove devo portare l'oggetto. Se l'oggetto non è visibile, vuol dire che sarà una sottocartella delle sottocartelle. Per cui devo andare ad aprire e chiudere l'albero delle cartelle di modo che sia visibile la destinazione stessa. Sì, la ripristino. Bravissimo, non ci clicco sopra, perché se io ci cliccassi sopra andrei su Geografia, che è una cartella vuota. Devo, infatti io non ho detto selezionate la destinazione, ma visualizzate la destinazione. Quindi, esatto, non ci devo cliccare sopra, devo visualizzarla. Ecco, se io ad esempio volessi portare quella cartella sul desktop, in questo caso cosa dovrei fare? Sì. Se io volessi fare il collegamento sul desktop, cosa dovrei fare? Visualizzare il desktop. Come, è quello il punto. E come faccio per visualizzare il desktop? Chiudo le cartelle e così ho il desktop. Non è che chiudo le cartelle. Facciamo finta di non conoscerlo perché non l'ho spiegato. Riduco la finestra. Se io volessi visualizzare in questa situazione qua il desktop, mi basta ridurre la finestra. E la finestra, abbiamo visto due lezioni fa, che si riduce usando questo pulsante qua. Ve lo ricordate? Sì. Usando questo pulsante qua, io riduco la finestra ed ecco qua bello il desktop. Quindi signori, non vi perdete in questi bicchieri d'acqua, perché all'inizio, quando uno inizia a usare il computer, mi rendo conto che una delle difficoltà maggiori sta nell'andare ad incastrare tutte le informazioni che vengono date nel corso del tempo. Però dopo tutti questi anni, bene o male, cerco sempre di dare un filo logico alle informazioni, per cui se vi dico visualizzate la destinazione, non pensate che vi stia dicendo crea un file Excel con una tabella pivot di cui non abbiamo mai parlato, ma dovete semplicemente andare a riguardarvi gli appunti e cercare di inquadrare il problema. Quindi se la destinazione è il desktop, semplicemente dovete renderla visibile riducendo la finestra magari. Però alle volte la parola desktop compare sulla sinistra. Lo so, Gioia, ma infatti è proprio per quello che io prima ho coperto qua i preferiti. Perché proprio volevo farvi vedere nel caso in cui se non è visualizzata, basta ripristinare la finestra. Analogamente, se io voglio andare in una sottocartella, devo andare a spulciare le varie sottocartelle. Ora, i più intraprendenti potrebbero anche pensare di aprire un altro Esplora Risorse. Nessuno me lo vieta. Cioè, se io sono dentro la cartella documenti e non ho voglia di andare a fare clic, clic, clac, che posso fare? Mi apro un altro Esplora Risorse d'accordo? Ho le due finestre una a fianco all'altra, così come abbiamo visto le settimane scorse, me le vado, e così vediamo anche che effettivamente avere due finestre può essere utile, me le vado a ridimensionare in questa maniera, qua c'ho l'oggetto che voglio spostare e di qua mi vado a visualizzare la cartella geografia. D'accordo, signori? Sì. Ne convengo che non è che abbia guadagnato niente, ma era solo per farvi vedere un concetto che abbiamo visto un po' di settimane fa, cioè di lavorare con due finestre parallelamente. Così non sto visualizzando la destinazione? Sì. Quindi questo è un altro metodo per fare questa operazione qua. Quindi il punto 2 in realtà lo posso risolvere in più e più modi. Aprendo una seconda finestra, ridimensionando la finestra attiva, andando a spulciare nelle cartelle sotto cartelle. Ci sono più modi per fare la stessa cosa. Quindi sicuramente il punto 2, a dispetto di tutti i pensieri che uno può avere, è quello più, tra virgolette, complicato. Ma ripeto, non è una complicazione, è semplicemente il capire come fare il punto 2. Punto 3, abbiamo detto trascino con il destro. Allora, se io prendo Europa con il pulsante destro e la trascino qua, quando lascio mi si apre un menu a tendina. E la cosa non dovrebbe stupire perché il menu a tendina, tutte le volte che c'è il pulsante destro, il menu a tendina dovrebbe essere automatico. Vedete che lui si ferma. Io nel frattempo posso anche andarmi a prendere un caffè, lui è lì fermo, che si sta aspettando che io gli dica che cosa deve fare di quell'oggetto. E mi dice, che vuoi fare? Vuoi copiarlo? Vuoi spostarlo? O ne vuoi creare un collegamento? D'accordo, signori? Se io gli dico, voglio spostarlo, vedete che sparisce da dove era, e si infila lì dentro. Avete visto? È sparito da qua ed è finito qua sotto, sotto geografia. Se io invece, guardate un secondo signori, se io rifaccio la stessa operazione e gli dico copia, lui continuerà a rimanere qua e continuerà a rimanere qua. Tutti d'accordo? Se ancora facessi l'operazione sul desktop e gli dico crea collegamento, vedete che qua si è creato il collegamento con la freccina, ma se io cancellassi il collegamento nulla succede all'originale. È chiaro per tutti questo discorso? Fatto da lei è chiarissimo. Ah, signori, è chiaro che poi uno deve avere anche la necessità di fare queste operazioni, perché poi banalmente se uno arriva a casa e dice vabbè adesso per cosa lo uso? E questa necessità poi arriva nel tempo quando uno inizia a crearsi i documenti. È ovvio che noi ancora oggi non abbiamo visto come crearci un documento, per cui magari all'inizio uno lo prova un po' di volte. Però quello che voglio farvi vedere è che in realtà non è complessa come operazione. L'unico punto, non parlo di criticità, ma parlo di difficoltà all'inizio, è senza dubbio questo. Cioè io quello che ho visto negli anni, in realtà io ero sempre convinto che la difficoltà fosse qua, perché uno diceva, beh, poi lo devo trascinare. In realtà mi sono reso conto che il punto è qua. Cioè uno dice visualizza la destinazione e uno inizia a fissare il monitor. Ma io la sto visualizzando la destinazione, da qualche parte c'è. E in realtà quella è la parte più... Però voglio dire, nel momento in cui uno arriva a capire che deve semplicemente cliccare le freccine per visualizzare la destinazione, o meglio ancora si mette le due finestre appaiate. Chiaro che poi lì arriva un'altra difficoltà. Che se uno non ha mai provato nelle settimane precedenti il ridimensionamento delle finestre perché aveva detto con superbia ma io tanto sta roba non mi serve, è chiaro che lì arriva l'altra difficoltà, no? Per cui le cose che facciamo di volta in volta provatele a casa, anche se vi sembrano banali, perché poi dopo servono. Vado e sto lì, non schiaccio niente. Esattamente. Oppure, in alternativa... Un attimo fa ho detto clicco, ma forse sono io che ho interpretato male. No, il clicco c'è, ma se io apro una seconda finestra. Ah, ok. Quindi io vado su geografia e ho dove vuoi e boh. Esattamente. O in alternativa, ripeto... Se sbaglia, voglio dire, poco male. Cioè, se lei clicca su geografia... Vede che non c'è niente, però voglio dire, non succede niente di male. Ma se clicco è una cosa in più, rimane già visualizzata. Ma il problema è che perde quello che c'era prima. Ah no, se clicco invece devo ripartire. Già. Non lo vuole il cambiamento, vuole solo la visualizzazione. Però ripeto, non c'è nulla di male, nel senso, se ci ha cliccato sopra, vuol dire che lo vede. Poco male. Ritorna sopra dove era. Lo riseleziona, però questa volta ce l'ha già lì bello visibile. Quindi il fatto di cliccarci poi è un discorso di esperienza. Non lo sono, no, ma ne convengo. Però voglio dire, una volta che uno prova due volte, vede che cliccando dall'altra parte gli scompare quello che aveva prima, ritorna sopra, lo riseleziona e la volta dopo non lo fa più quell'errore lì. Allora, questa è una domanda importante, voi dovete sempre fare riferimento alla barra dell'indirizzo. Sì. Allora, la barra dell'indirizzo, che è questa, vi dice dov'è il file. Quindi, per rispondere alla sua domanda, dove si trova Europa? Europa si trova sotto documenti. Ah, ma il problema è che se lei clicca qua, questa finestra qua cambia, la vede? Quindi se io ho Europa e la sposto sotto geografia, mi segua, eh? Vede che io qua ho scritto documenti, Europa non c'è più. Se io clicco su geografia, vede che qua c'è scritta documenti, libri, geografia, eccola qua Europa. Quindi questa è una domanda, ecco, queste poi sono le piccolezze, no, che magari uno dà per scontata, ma è effettivamente importante. Però per rispondere alla domanda del Signore, per capire la finestra di destra a chi fa riferimento, dovete guardare alla barra dell'indirizzo. No, signori, scusate, adesso ci stiamo perdendo perché copia e incolla, sposta, crea, fa e dice. Ok. Allora. Ripartiamo dalla situazione iniziale, ok? Anzi, facciamo ancora una cosa più bella. Togliamo dalle scatole Europa. Adesso Europa non è più da nessuna parte. La creo sotto documenti. D'accordo? Clic destro, nuovo, cartella, Europa. Adesso tutti quanti siamo d'accordo che è sotto documenti? Se abbiamo qualche dubbio, abbiamo detto dobbiamo guardare qua dentro e qua dentro mi dice che sto lavorando nella cartella documenti. Ora, apro Esplorare risorse, seleziono l'oggetto, visualizzo la destinazione è bella visibile perché è qua, trascino col pulsante destro la destinazione, quando mi appare il menu a tendino gli dico sposta, dicendogli sposta di qua è scomparsa, ma di qua vuol dire che è scomparsa da documenti, tanto vero che se io vado a cliccare su geografia, ecco qua Europa, è chiaro adesso? Allora, la tendina perché è apparsa? Perché io ho trascinato col destro. Ora, signori, attenzione ad una cosa, perché? Rifaccio l'operazione. Prendo Europa, questa volta col sinistro, non col destro. Prendo Europa, la trascino su geografia, mollo il pulsante e lui l'ha spostata, senza farmi apparire il menu. Ora, il problema fondamentale è che se io sposto tra due cartelle della stessa unità, lui mi fa uno spostamento. Tra due unità diverse mi fa una copia. Tra un'unità di massa e il desktop mi fa un collega. Ma la mia domanda a questo punto che vi rivolgo è, vale la pena che se voi state iniziando a usare un computer vi dovete spaccare la testa per cercare di capire che diavolo sta facendo sto computer? Secondo me no. Quindi se uno fa quello che io ho segnato nel cuoricino, quindi il trascinamento col destro, col trascinamento col destro, lui è qua, mi fa apparire il menu a tendina, io nel dubbio chiedo consiglio al mio vicino di banco, che è il mio collega, dico, senti un po', va bene cosa sto facendo? Sì, no, parliamo, discutiamo, facciamo una riunione. E a quel punto uno, nel mentre che è passato tutto questo tempo, ha ancora il tempo di dirgli copia, sposta o collega. Ecco perché io l'ho segnato più e più volte quel destro. Primo, perché secondo me è inutile che un utente di volta in volta si cervelli per capire se sta facendo un copia, una sposta o un collegamento. Secondo, perché chi ha problemi col mouse, perché magari sta iniziando adesso, la cosa peggiore che possa fare è iniziare a fare il suo lavoro qua. Prende, poi non è tanto pratico del mouse, sto mouse inizia a fare ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mollo, oddio, dove è finita? Vabbè, qua combinazione l'ho messa nella stessa e va bene. Però la molla in un punto qualsiasi e poi lì sì che mi entra in panico. Allora, volta dopo dice, vedi, non si poteva fare nessun casino, io l'ho fatto. Allora, invece col click, col trascinamento destro, il problema non si pone. D'accordo, signori? Quindi il compitino che vi do è il seguente. Sì, sì. Dentro la cartella documenti, se non l'avete già fatto la lezione scorsa, create la cartella ricette. Oh, signori, vi parlo delle ricette perché più o meno tutti, quando si parla di mangiare, poi a me piace mangiare. Quindi ricette, carne, no perché poi ci sono i vegetariani, che ne so, verdure. Quindi dentro la cartella documenti vi create queste tre sottocartelle, ricette, carne, verdura. Dopodiché, che cosa voglio che facciate? Mi spostate queste due sottoricette e ricette lo collegate sul desktop. Le sottoricette sono carne e verdure, no? Sì. Sì. Quindi nella cartella immaginaria la cartella ricette e due sulla carne. Esatto. Quindi, in altre parole, signore, quello che io voglio che facciate è la seguente cosa. Sono dentro la cartella documenti, d'accordo? Così come abbiamo visto la lezione scorsa, mi faccio la cartella ricette, mi faccio la cartella carne, mi faccio la cartella verdure. D'accordo signori? Quindi il primo passo è quello dentro la cartella documenti di farvi queste tre sottocartelle. Dopodiché dovete seguire i passaggi che abbiamo visto prima, cioè vi selezionate verdura e carne, magari usando la selezione multipla con il control click, e trascinate dentro la cartella ricette. Quando vi appare il menu a tendina, gli dite sposta. Loro scompaiono da documenti e per essere sicuri che le infilate nel posto giusto, clicco su ricette e vedo che effettivamente sono qua. Dopodiché prendete ricette e lo trascinate sul desktop e gli dite crea collegamento. E lui vi ha creato il collegamento a ricette sul desktop. In questo modo, signori, se io vado a fare doppio clic su ricette, guardate un po' chi c'è, carne e verdure. E se io cancello il collegamento sul desktop, dentro documenti continua a rimanere ricette. E dentro ricette continua a rimanere carne e verdura. Quindi è semplice, è questo. Quindi questo, prendetelo come esercizietto per provare le cose che ci siamo raccontati in questa lezione qua. Aspettate a scappare. Ben 10 minuti. Allora signori, come si fa per creare, per, allora, giustamente uno dice, ma se io sul desktop nel frattempo, negli anni, mi son creato un sacco di icone tipo ricette, tipo libri, tipo storia e così via dicendo, come faccio tutti questi oggetti qua a togliere dalle scatole? Li devo spostare dentro la cartella documenti e adesso so come fare. Quindi, in altre parole, guardate signori, perché questa è l'operazione esattamente inversa a quella che abbiamo fatto prima. Se io ho i vari documenti nel desktop, punto primo, li seleziono. Da dove? Questa volta dal desktop. Tac, tac, tac. Punto secondo, li trascino a destinazione. Ora, se voi siete in questa situazione, la destinazione non la vedete, per cui vi dovete aprire Esplorare risorse. E dovete andare dentro la cartella documenti. Mi seguite? Punto terzo. Ecco, vedete che qua, per esempio, ho perso la selezione, il signore con gli occhiali e il maglione verde. Qua ho perso questa volta la selezione, e vorrà dire che la selezione la devo rifare. Poco male. Quindi, vedo la destinazione, che è la cartella documenti, faccio trascinamento destro su documenti. Quando lascio gli dico sposta e dal desktop sono spariti e me li ritrovo qua dentro. Guardate signori che è un'operazione semplicissima, perché se io vi dico sposta il gessetto dal palmo della mia mano lì sopra, cioè è intuitivo che devo pigliare l'oggetto e metterlo lì sopra e l'armadio lo devo vedere. Quindi se ci pensate nella vita di tutti i giorni, questo è un concetto che è assolutamente normalissimo. Il tutto sta a capire come trascinare e dove trascinare. Prego. Sì. Il puntatore. Quello che fa tutto è il puntatore del mouse. Signori, buona serata, ci vediamo venerdì prossimo. Mi ricordate venerdì prossimo che facciamo il taglia copia e incolla? Taglia copia e incolla, sì. Ciao. Ciao bambini, una volta che ho finito tutto quello che devo fare, cancello l'altro e sposto quello di lì, è una cosa brutta. Perché se per fare il collegamento se sbaglio.